Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. E questo che è l'angolo vate? No, questa è la stanza da pranzo. Marino, oh, vieni un po' a vedere la camera da letto. Dai, e cammina. Che c'è, è bella, ma come, no? Che c'è? Qua non c'entra neanche il letto. Ciao a tutti, sono Sofì di Nizza. Ciao, sono Maffe da Venezuela. Ciao, sono Matteo di Roma. Qua non siamo solo coinquilini, abbiamo una stanza libera. E stiamo cercando una persona che sappia rispettare la nostra convivenza. Angolo cottura, angolo intimo, angolo doccia con relativo spogliatoio, angolo ricreativo, angolo TV, angolo telefono con sediolino incorporato pronto, angolo pranzo cena, con sedie ribaltabili. Mi rendo conto che i problemi che stiamo attraversando sono di lacerante e profonda attualità, e quindi non vogliamo dare un'accezione eccessivamente leggera o frivola al tema di questa mattina, però mi piacerebbe fare un punto sulle persone che cercano casa in affitto. Come è cambiato il panorama, il mercato, il necessario rapporto fra domanda e offerta? È un argomento che abbiamo spesse volte sfiorato, ma sembra che oggi, tra l'infinità di emergenze e di urgenze di cui si parla, sempre legato a questa radicale, profonda e sfinente crisi economica, si sia messo in secondo piano il fatto che comunque un'infinità di persone ogni giorno abbiano necessità di trovare una casa per vivere, una casa per studiare, una casa per passare il loro tempo, una casa da usare come garzoniere, comunque abbiano bisogno di quattro pareti che si chiudono a porta e dentro uno possa dire casa mia, anche se pago un affitto, anche se sono condannato a promiscuità a volte imbarazzanti. Mi ha dato lo spunto un libro che è uscito da poco, il cui titolo pronuncerò soltanto una volta perché non lo dico con grande leggerezza. Cerco casa, non un cesso, cioè una casa che non sia un cesso, che non sia una casa al di sotto delle conquiste di civilizzazione alle quali ormai ci siamo abituati. Il libro è uscito per le edizioni 80-144 e è scritto da 9 autori, 9 scrittori che hanno dato 9 punti di vista differenti, in maniera divertente, in maniera colorita, in maniera articolata, di persone che disperatamente cercavano una casa e sono trovate di fronte a delle situazioni paradossali. Vi faccio un esempio: un medico molto referenziato che affitta un appartamento a un prezzo abbastanza accessibile purché il vicino si occupi delle sue piante, oppure una signora molto anziana che gioca d'azzardo, una donna che vuole affittare casa, un ragazzo che all'occorrenza si spacci per suo marito perché lei è particolarmente lanciata nel mondo del business, a volte ha bisogno di millantare un consorte. Insomma, fra sfratti, regole di condominio, convivenze forzate, cattivi odori, coinquilini, avete anche voi delle esperienze al limite dell'umano da raccontarci riguardo la ricerca disperata di una casa in affitto, o se voi siete proprietari di appartamento, con chi siete incappati? 800 24 0024. Ciao e benvenuti nella visita guidata della mia casa. È una cucina stretta e lunga, forno a microonde, un po' di mobili, e passiamo al soggiorno che ha questa parete che funge da corridoio e parete attrezzata, divano e poltrona, un bel tavolino, bagno che ha all'ingresso una vasca, bidet, water, eccetera, il lavandino. E questa è la piccola casa di Franco. Era una casa molto carina, senza soffitto. Naturalmente la rete oggi è diventata una delle maniere più dirette per conoscere in anticipo laddove si vada a incappare, ma molte volte siamo ancora abbastanza inclini a dare un occhio di considerazione con gli annunci immobiliari che leggiamo: appartamento rifinitissimo, solo a referenziatissimi. Cosa vuol dire? Boh, non si sa, uno si entra, trova delle case che sono in condizioni in cui uno non metterebbe nemmeno il proprio cane a vivere. Tante volte ti dicono basta dare una rinfrescatina e poi cominciano le clausole, le sottoclausole, le cose che non funzionano, le riparazioni da fare e la discussione se poi si intasa il bidet sia a carico dell'inquilino, del padrone di casa, e tutto dipende se la serpentina è un centimetro al dentro e nella parete o al di fuori, e uno alla fine è disperato, provvede da solo, ma sa già che una casa comincia a dare dei problemi all'inizio, li darà per sempre. Alessandro, buongiorno. Buongiorno, sono Alessandro e chiamo dalla provincia di Genova. Io faccio l'agente immobiliare, quindi mi sento parte in causa in questo toccato, argomento. Toccato nel vivo. Esatto, ma io noto questo nel settore degli affitti soprattutto. Il problema dei proprietari che non hanno tutele, nel senso che nel momento in cui un proprietario affitta una casa, innanzitutto per 8 anni, così come la legge adesso, deve dare in affitto la casa, quindi 8 anni ne perde il possesso. E soprattutto nel momento in cui non c'è poi il pagamento dell'affitto, questo non sa da che parte iniziare, perché inizia una causa, nello stesso tempo le tasse le deve pagare comunque su un affitto che non percepisce, tempi sono lunghi, più di un anno e mezzo, per poi ritornare nel possesso dell'immobile. Quindi lei in questo momento la eleggo sul campo nostro consulente, visto che io ero partito con l'aspetto della raccolta delle esperienze, lei però mi porta su un lato tecnico che non posso trascurare. È cambiata la legge e questo rende naturalmente più difficoltoso, lei lo dice, il punto di vista, cioè il mantenimento della situazione dei proprietari di appartamento. L'inquilino spregiudicato sarebbe quasi tentato a dire: io entro dentro, poi non pago l'affitto, tanto so che per un anno la farò franca, qualcosa del genere. Ma in un certo senso sì, perché il proprietario non ha delle tutele forti, perché se lei ha una casa, lo dà una persona al primo che viene, che ha un buon stipendio, che può avere tutte le referenze, e questo per motivi suoi personali non paga l'affitto, in quel momento lì il proprietario inizia ad andare nel panico, perché intanto sul contratto è regolare e quindi paga le tasse su qualcosa che non percepisce, e soprattutto se inizia a fare una causa civile, a seconda di che tribunale va a finire i tempi. Io vedo su Genova che una casa, uno sfratto per morosità ci vuole un anno e mezzo. Quindi questo è già un disincentivo per un proprietario affittare a lunga percorrenza. Senta, io torniamo però al punto per cui ero partito io. Lei che è agente immobiliare, naturalmente percepisce e intercetta il mercato delle case che passa sotto voi agenti immobiliari, molte volte esiste anche un mercato parallelo che molte volte rasenta anche la clandestinità, per quanto oggi facciano controlli più stretti. Non mi dica che non ci sono ancora persone che affittano al nero, parte dei soldi sì, si fanno dare in mano. Ci sono, ma sono diminuite notevolmente, perché la legge della cedolare secca, quindi quel 20% di tassazione che uno va a pagare, in un certo senso ha fatto una sorta di sanatoria per tutte quelle persone che volevano pagare meno tasse. Il problema non è tanto l'affitto in nero oppure no, perché ormai ce n'è forse una minima parte, forse chi ancora vede nella registrazione un qualcosa di così ambiguo, però il problema adesso è anche l'IMU. Cioè il problema è che quando uno affitta anche la casa, a volte c'è anche il problema che l'IMU va a incidere anche su un appartamento che ha affittato, non c'è nessuna detrazione, e quindi anche quella, a volte dicono che con l'IMU, con la casa affittata, si paga anche di più l'IMU. Quindi ci sono delle situazioni a volte paradossali. Ecco, però torniamo alla domanda che mi ero fatto io. La paraculaggine nell'esporre le caratteristiche fantastiche della propria casa, che molte volte non corrispondono alla realtà. Quelle formule tipo civettuolo appartamento, vero bijou, bomboniera con vista, ecco, chi è che se le inventa? Allora, adesso lì è un po' finita anche questa, cioè questa secondo non me c'è più. Un po'... Non è che non c'è più, adesso c'è internet, permette di mandare foto dell'appartamento, il cliente che prima di vedere una casa ti chiede già: ma mi mandi delle foto, così non si perde tempo in due. Diciamo che il discorso della casa vecchia è che purtroppo il patrimonio immobiliare italiano in certe circostanze è già vecchio di per sé, e pertanto le case non sono nuove, è difficile che un proprietario che compra una casa nuova la dia subito in affitto. Ma si possono affittare case con gli impianti ad esempio non a norma? No. Diciamo che il proprietario, anche qui nota dolente, il proprietario deve far sì che la casa sia con gli impianti a norma, impianti elettrici, impianti idrici, impianti del gas, quindi c'è anche il certificato energetico, anche se, perché anche la casa deve avere il certificato energetico, se no non si può neanche affittare l'appartamento. Quindi diciamo il proprietario ha tanti... Comunque ho capito Alessandro, è chiaro, dal suo punto di vista di agente immobiliare, lei dice in questo momento la parte debole sono i proprietari, noi questa mattina la facciamo dalla parte invece degli inquilini. Pensi un po'. Antonio, buongiorno. Buongiorno, Io chiamo perché sono stato stimolato da un tema che reputo veramente interessante e vi faccio complimenti per la scelta. Lei è incappato in una situazione imbarazzante. Esatto, molto imbarazzante. Io questa mattina vorrei soltanto situazioni imbarazzanti. Vorrei divertirmi un po', se fosse possibile, ammesso che sia possibile. La mia è la seguente. Dopo una, io faccio il, sono un ricercatore universitario e quindi, non essendo da Milano, vivo a Milano per ragioni eminentemente professionali. Ho bisogno di una sistemazione che mi garantisca, insomma, un letto e una certa tranquillità per fare il mio lavoro. E allora cercavo, le basta uno zozzo giaciglio praticamente, tanto passa il tempo in laboratorio. Esatto, cercavo nel mese di gennaio scorso una sistemazione. Tra gli annunci individuati su internet trovo di un monolocale con una certa comodità a Milano. Mi informo via email e il proprietario mi dice: guarda, non è più libero, però ti segnalo che un mio parente ha a disposizione una soluzione simile. Per farla breve, chiamo questo signore di poco superiore alla trentina dal punto di vista anagrafico e scopro che fa il vigile a Milano. Il vigile a Milano, ha appena acquistato un comodo trilocale in periferia e mi dice: ti posso affittare una stanza con un bagno annesso a patto che tutto avvenga, diciamo, in condizioni di clandestinità, o meglio che rimanga in al nero. È certo. Ecco, quindi diciamo la cosa interessante era Ma lei aveva un uso bagno, no? Un bagno tutto suo? Avevo un bagno tutto mio, si è separato da una diciamo porta ulteriore che isolava appunto un bagno e una piccolissima stanza. La cosa interessante appunto è stata comunque una convivenza tranquilla. E le altre due stanze la facciano dalla finestra, perché il bagno sarà preso lei, un trilocale, non credo che abbia due bagni. No, aveva un altro bagno annesso ad una camera da letto. Ah, bello. No, abbastanza recente, nuova la casa. Comunque la cosa interessante è che a un certo punto mi sono stancato, nonostante la convivenza andasse tutto sommato bene. Ma con chi conviveva? Col vigile o con altre persone? No, convivevo, diciamo, nella mia stanza ero da solo, evidentemente. Il vigile viveva con una sua fidanzata. Ma quindi era, diciamo, lo scorticatoio del vigile dove metteva, subaffittava una stanza. Esatto. La cifra che chiedeva erano 600 euro in nero, poi trattando siamo arrivati a 500, che credo insomma sia un buon incremento rispetto a uno stipendio che mi diceva arriva più o meno a 1.300-1.400 euro. Questo bagno era un bagno normale, perfetto, senza problemi? Un bagno cieco, sì, la casa era nuova, quindi era alquanto comodo, devo dire, a parte che non era con la finestra. Cioè un bagno senza finestra, beh, succede, accade, chiaro. Succede anche negli alberghi, solo che magari sono di una come dire, resa maggiore. No, invece l'ultima cosa che volevo dire è che adesso ho trovato una nuova sistemazione dopo aver visto diverse soluzioni abbastanza indecenti a Milano, anche in pieno centro, che sono spacciate dagli agenti immobiliari come finemente arredati, lussuosissimi, solo referenziati, chiedono lettere di referenza addirittura per affittare monolocali. Ho trovato una casa con un bagno in cui si riusciva a stare solo in piedi e con un... Vabbè, lei è un uomo, la fa in piedi, che problema c'è? Sì, questo è vero, ma insomma, abbastanza interessante quello che lei dice. Quella grossa come faccio? Si arrangia in piedi anche quella. C'era questo water, io ho segnalato che mancava il bidet e mi dicono no, il bidet è nel water. Allora, osservando bene il water, si osservavano due, diciamo, fuoriuscite laterali, due canaline, da cui aprendo un rubinetto sarebbe venuta fuori l'acqua, diciamo, con una certa pressione, diciamo, detergente. E beh, poi non per ci cui... piove. È un modello giapponese molto raffinato, bidet con lo schizzo. Sì, diciamo che però mi sembrava alquanto triste, ecco, quindi volevo solo condividere questa mia esperienza. Ma lei miseramente ha fatto uso di questo sanitario generazione? No, diciamo che... era finemente arredato, a dire del proprietario, con 3 mesi di cauzione richieste, 3 mesi anticipati di pagamento, perché la cosa interessante è che per entrare in una casa, non so, diciamo credo ovunque, ma a Milano in modo particolare, richiede un esborso di 6-7 mila euro, considerando la cauzione, appunto il pagamento anticipato delle mensilità. E nemmeno ci si può fare un bidet come Dio comandi, ecco. Esatto. Vabbè, questa mi sembra una situazione imbarazzante, notevole, ma... vorrei ancora di più. Intanto cominciamo a sentire uno degli autori di Cerco Casa, Non un cesso, edizione 80-144, che ho detto racchiude le esperienze di ben 9 autori. Simone Arminio, buongiorno. Buongiorno a voi. Ecco, come vi è venuto in mente a voi 9 scrittori di mettere insieme questo libro di profonde e laceranti esperienze di tentativo di acquisto, di affitto di una casa? Beh, vi ha unito la disgrazia. Come accade spesso, l'ispirazione si trova guardando la realtà. Noi abbiamo cercato casa spesso, io sono stato studente fino a 3 o 4 anni fa, ho cambiato tantissime case Tra le tante che ho cambiato, almeno il triplo sono quelle che ho visto ogni volta. In effetti le particolarità sono sempre all'ordine del giorno e sono sempre veramente assurde, nel senso che ci si aspetta, sì. Poi voi avete individuato delle tipologie ricorrenti, come ad esempio la padrona di casa tipica nelle più disgraziate delle situazioni. La padrona di casa tipica ha quasi sempre almeno 80 anni. È un figlio che magari non ha mai... È la vecchia furbastra che vuole speculare sull'appartamentino che ha e cerca di spremere più che può. E soprattutto ci tiene particolarmente a quella cassapanca di legno che sta in soggiorno e che non devi assolutamente toccare, anche se ci vivi tu, perché è casa sua e deve stare... dentro c'è il cadavere mummificato del marito, probabilmente. In genere non ci si guarda proprio per questo motivo, però è una certa... Diciamo che dà una certa... Ecco, comincia a elencare delle situazioni di profondo imbarazzo in cui sei incappato e vediamo se troviamo nel nostro pubblico che chiama l'800240024 alcune simpatiche coincidenze. Ma una delle storie è legata anche, come si è parlato finora, come si è detto finora, al bagno, perché quasi sempre il bagno è quello che nasconde le insidie peggiori. Una delle case che abbiamo visto e che abbiamo raccontato era una casa per 7 persone, però molto molto grande, quindi ci si stava tutti, anche perché l'annuncio prometteva un triplo bagno. Invece? Vedendo questa casa, il triplo bagno era triplo, effettivamente, ma in questo senso la tazza del water stava in uno stanzino cieco, il lavandino stava in un antibagno e la doccia era sul balcone come si usava una volta, quindi per l'anziana padrona di casa era effettivamente un triplo bagno, perché se lavo le mani non faccio la doccia, se faccio la doccia non sono in bagno, per cui ogni mattina dovete fare il tour igienico, mettervi d'accordo tutti e 7 come 7 nani, chi cominciava dalla doccia e chi cominciava dal bagno. Ho semplicemente cercato un'altra casa. Altre situazioni? Bah, ce ne sono tante. Quasi sempre la difficoltà delle padrone di casa sta nel fare le manutenzioni. La nostra padrona di casa era stata soprannominata Miss Silicone, e non per motivi di chirurgia estetica, ma perché qualsiasi cosa succedesse in casa poteva essere risolta tranquillamente con un po' di silicone. Anche se un buco nel muro era di dimensioni di mezzo metro, per lei bastava un po' di silicone. Questa è un'altra delle note dolenti che ho anticipato prima, il braccino corto del proprietario quando c'è da fare qualche manutenzione, e molte volte è l'inquilino che, preso dalla disperazione, la fa a spese sue e dice chi se ne importa, pur di vivere bene il tubo lo cambio, invece continuerà a mettere il silicone. Lorenzo, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletti, chiamo da Siena. Dalla parte del proprietario dell'appartamento, a discolpa di tante accuse che vengono date, ho ereditato un piccolo appartamento da mia mamma qualche anno fa, l'ho ristrutturato tutto a mie spese, tutto in regola, certificati di conformità eccetera eccetera, e mi sono messo a affittarlo con contratti transitori a studenti, perché i contratti, come stava dicendo l'agente immobiliare all'inizio, di 4 più 4 non ti danno tutele, ti va via, c'hanno la famiglia, lo sfrattano, glielo danno. Non conviene più affittarlo in quella maniera. No, assolutamente, devi pagare le tasse e basta. Invece il contratto transitorio studente come funziona? Il contratto transitorio sono fino a 3 anni, sono annuale rinnovabile. E, ma lei può anche non rinnovarlo, cioè può cacciarlo se non gli sta bene dopo un anno? Ma normalmente si rinnova automaticamente, se non ci sono motivi particolari viene rinnovato automaticamente. Poi la sua è una città universitaria, quindi... Sì, ecco, ma di solito non durano nemmeno un anno, perché io ho avuto per esempio un'esperienza ultima, ho affittato a degli studenti, è un appartamento molto bellino, anche proprio messo bene, tutto... La bomboniera, quella è veramente... Tipica bomboniera. E dopo 6 mesi, senza preavviso e niente, chiaramente che gli fai una causa, gli fai niente, in Italia non conviene nemmeno... Se ne sono andati, fortunatamente hanno pagato anche l'ultima bolletta, e per farla breve ho dovuto fare io 12 sacchi dell'immondizia, quelli giganti, di roba da buttare via, non ci si camminava nemmeno, poi prendere una ditta per pulire e una per rimbiancare dopo 6 mesi. Praticamente erano studenti o studentesse? Questi erano misti, erano una studentessa e due studenti. E in quanti vive? In quanti ci sta? In 3 persone, in quanti metri quadrati? Erano 3 persone. persone su 80 metri quadrati. Beh, che poi ho trovato due brande in più, sì, che presumo che a mia insaputa vi subaffittavano, cioè praticamente veniva la caserma. Che non era possibile comunque contrattualmente il subaffitto? No, no, no, assolutamente, non è subaffittabile. A meno che non fosse un'attività saltuaria parallela in cui si alternavano ospiti in quelle brandine, potrebbe anche essere questo. Purtroppo i pezzati piccoli sono già tutti presi. Ah, venga, venga, venga. Lei è fortunato. Ne è rimasto uno doppio, luminoso, confortevole e spaziosissimo. Prego, prego. Contento? Bello, l'ingresso è bello. Ingresso, soggiorno pranzo, letto, cucinotto e water closet, è tutto qui. È il risultato di accurate ricerche a dimensione d'uomo, guardi qua. Ecco fatto. E la finestra non c'è? Sorpassata. Venga, venga, venga qua, guardi. Questa è l'aria calda. Qui c'è l'aria fredda, questo è il... Non è certo un problema di questi ultimi giorni, quello degli appartamenti indecenti proposti come case fantastiche. Questo era un vecchio film di Pozzetto in cui gli viene proposta una casa, praticamente era un buco, il cui letto usciva dalla parete, se si apriva il letto non si poteva fare altro, una cosa veramente tristeria. Ma io ho memoria della mia prima residenza qui a Roma, avevo un fantastico monolocale con uso cucina, c'era una tenda che chiudeva la cucina, mi ricordo ero molto vergognoso di questa tenda che nascondeva la cucina, non cucinavo mai, e poi escamotage di sopravvivenza per far sembrare una raffinata garçonnière quello che era una stanza terrazzata al piano terra, era orribile. 800240024, questa mattina parliamo della differenza di opinione rispetto a chi affitta e chi dà la casa in affitto, sul luogo di decenza, sulla presenza dell'appartamento, sulle manutenzioni da fare. Lo facciamo parlando del libro Cerco casa che non sia un cesso, è il sottotitolo, 80-144 edizioni, dove 9 scrittori si sono prodotti nel suggellare e passare ai posteri 9 situazioni in cui tutti i luoghi comuni, tutti gli stereotipi rispetto alla delusione a fronte della ricerca di una casa decente a un prezzo decente, in cui tanti sono in corsa, e quindi vedo che nel nostro pubblico ce ne sono veramente tanti. Giuliano, buongiorno. Sì, buongiorno. Sto aspettando la sua testimonianza di triste esperienza. Beh, in questo caso è testimonianza di una mia amica carissima che nel centro storico di Napoli, dove gli impianti spesso non sono perfettamente a norma, notava che... Il non perfettamente a norma in cosa si traduce in questo caso? Beh, si traduce, diciamo, in impianti abbastanza... abbastanza volanti. E, insomma, con la sana vecchia antica piattina degli anni 50. Esatto, e notavano che avevano queste bollette particolarmente elevate, no? Nonostante in casa loro fossero abbastanza parche, erano tutte ragazze, e avevano a fianco l'appartamento del medico, noto medico, che gliel'aveva affittata, e appunto provavano a chiedere al medico il perché di queste bollette, lui diceva: ragazze, spegnete la luce, insomma. E finché un giorno, facendo esaminare da un loro amico elettricista il quadro, scoprono che l'astuto medico aveva aggiunto una piccola linea e in sostanza gli caricava il suo bolletto sulle 3 povere parche che alla fine saranno stancate di stare lì e pagare il medico. Mi sembra questa una delle situazioni più che imbarazzanti e irritanti. Grazie. Marco da Milano. Salve Nicoletti, da Monza chiamo. Ah, da Monza. Sì, praticamente circa 2 anni fa cercavo un appartamento in affitto e ho trovato questo che era appunto adiacente al centro, che normalmente siamo su una media di 600-700 euro, questo qua era 300 al mese. Un affarone, ha pensato lei. Ho detto, caspita, e allora sono andato con la ragazza dell'agenzia ed era appartamento situato all'ultimo piano, con terrazzo, diceva, va bene. Allora, niente, saliamo in ascensore, arriviamo al 7° piano, l'ultimo, usciamo e lì facciamo un'altra rampettina di scale. E niente, arriviamo a una porticina, apre questa porticina, ecco, questo è l'appartamento, è una soluzione un po' particolare, sai, cercava di abbellire un attimino. Una bomboniera comunque. Praticamente era il... guarda, non sono proprio un tecnico, ma ho capito che quello era l'ex locale manutenzione dell'ascensore. E quindi voi dovete convivere con gli ingranaggi, le pulegge, le catene dell'ascensore? No, penso che allora... Come il gobbo di Notre Dame con le campane. Una sorta, perché praticamente avevo visto che l'ascensore, appunto, con cui eravamo saliti era nuovo, quindi l'avevano rifatto e evidentemente era avanzato spazio. Nell'ex locale manutenzione ci hanno ricavato un appartamento che appunto mancava, come si chiama, il gas. Per cui vabbè, lì si poteva abbozzare con cucini l'elettrico, con il camping gas famoso. Poi? E poi il terrazzo famoso, appunto gli chiama il terrazzo, come si fa ad accedere, mi fa vedere questa finestra che era diciamo ad altezza sopra, poco sopra il mio petto, cioè quindi praticamente era una finestra che dava sul tetto, cioè bisognava scavalcare per andare poi sul tetto. Vabbè, ma se lei avesse mai la passione del deltaplano era un ottimo punto di partenza. Sì, ma non le dico appunto il bagno, che in realtà bisognava uscire da questo sontuoso appartamento per recarsi in un piccolo bagno anche lì, penso di servizio, non so, che ci sono spesso nei condomini o qualcosa del genere, probabilmente dove si attaccava il portinaio quando doveva pulire il tetto con la gomma. Sì, è la stanza delle scope che c'è di solito un rubinetto. Esatto. Beh, divertente, devo dire, io una volta mi proposi un appartamento, ricordo che in camera da letto c'era tutti i contatori di tutto il condominio, e l'unico disturbo era che bisognava far salire per la lettura, che stanno proprio davanti al letto, però era anche bello da guardare. Grazie, Marco da Cagliari. Pronto, buongiorno Nicoletti. Sì. Anch'io porto il mio caso umano, chiamo perché parecchi anni fa, quando ancora ero uno studente universitario, abitavo in casa mia e affittavo le due camere restanti ad altri universitari. Un giorno affitto la camera a questo ragazzo che poi soprannominiamo, io e l'altro mio coinquilino abbiamo soprannominato O Animale. Questo perché scopriamo già al secondo giorno della sua permanenza che lui in realtà non era uno studente universitario, ma era un protettore di una prostituta. Ah, un magnaccia in casa, vabbè. Pagava l'affitto almeno. Ha pagato un affitto, ha pagato il primo affitto perché poi l'abbiamo mandato via. Perché vi ripugnava il suo mestiere orribile per questo? Ci ripugnava da una parte il suo mestiere orribile. Si portava orribile, il lavoro a casa, qual era il problema? Si portava anche il lavoro a casa perché portava questa signora che ormai aveva, credo, secondo me aveva 30 anni, ma ne dimostrava almeno 45. Vabbè, avercela una 45 anni, non è quello il problema. Non discriminiamo sull'età. Sì, temevamo l'esercizio della professione in casa. Più voi che temevate altro, che la facesse lavorare in casa? Esatto, esatto. E poi diciamo che vabbè, io l'ho allontanato dopo 20 giorni e lui mi ha detto non ti preoccupare perché io ho già trovato un lavoro. Ho conosciuto alcune persone che fanno i traghettamenti delle persone dall'Albania. Ah beh, niente, avevo pensato di diversificare la sua attività. È una storia vera, nel senso che ha messo... No, ma io non l'ho messo in dubbio, ma quando si è presentato la prima volta questo personaggio, non vi è venuto il sospetto che magari non era proprio uno studente? Sì, sì, sì. Mi è venuto, non mi aveva convinto per niente, mi sembrava una persona... Però lei ha pensato bene di andare avanti perché era necessario per lei riuscire a subaffittare questa stanza. Esatto. Beh, comunque vi è andata bene perché non siete stati sgozzati, quindi alla fine la situazione ne siete usciti in maniera abbastanza buona. Angelo Zabaglio, buongiorno. Buongiorno. Angelo Zabaglio è un altro degli autori del libro che abbiamo citato, Cerco Casa. Nello specifico, diciamo, il settore che lei si è ritagliato è quello dell'eliminazione fisica dei coinquilini o qualcosa del genere. Fisica e mentale, sì, perché alla fine io sono sempre stato abbastanza fortunato per le case. A parte il primo ascoltatore che avete intervistato che ha detto che non esiste, che sono poche le case in nero che si affittano. È un agente immobiliare, è chiaro. Sì, ma forse non abita a Roma, insomma, perché qua trova uno che ti fa un contratto, cioè lo devi abbracciare. Quindi nella capitale, diciamo, è molto diffuso l'affitto clandestino. Sì, cioè, non ci credo, è proprio difficile. Infatti, quando poi ho girato varie case, e quando abbiamo trovato in zona Alessandrino, che è una zona periferica, sai, piena di, insomma, questi quartieri degradati che fanno vedere nei telegiornali, no? E un signore che ci ha fatto l'offerta di 8,50 con contratto, tutto in regola, e noi già pensavamo alla truffa, alla cosa. Questo proprietario era tipo Mario Brega, il padre quello di Verdone, a Un Sacco Bello. Sì. E quindi un personaggio assurdo che ti fa il contratto, noi pensavamo già alla truffa, ai soldi persi, invece poi due tutto anni, bene, in regola, esistono queste cose, ma sono proprio, cioè, devi andare a trovare. Invece, essendo stato sempre fortunato con le case, poi però la sfortuna è anche trovare magari qualche coinquilino che sta là appeso morto, cioè che non ama la vita in casa, che non fa niente. Anche, cioè, diciamo, questa è una situazione universitaria, ma non soltanto universitaria, di fronte alla necessità, anche persone, diciamo, post-universitarie dividono la casa. E la convivenza, devo dire, è qualcosa che sembra appartenere ad altre epoche, eppure bisogna adattarsi se non c'è altra possibilità. No, infatti questo, cioè, alcuni hanno 35-40 anni, però convivono con altri coetanei, cioè ormai è diventato quasi la normalità. Questa è una situazione, provo qualche difficoltà a pensarla, perché di quarantenni che convivano con altre persone. Però è così, cioè ci stanno sti casi, insomma. Ma come fossero studenti, ma in realtà lavorano, In realtà si parla, invece che andare a scuola vai in ufficio, però... Ma come gestiscono le loro vite private? Perché a quell'età è anche lievemente più imbarazzante gestire una relazione. Ci viene a casa mia a trovarmi e trova altri quattro assatanati in ciabatte davanti alla televisione. Ma è imbarazzante se pensi che magari anche le donne o gli uomini, le compagne o i compagni, non vivono in questa situazione, ma visto che anche magari trovano la compagna che vive con altre due ragazze, cioè, quindi è un aspetto della società, della vita che... Questo è interessante, c'è un prolungamento estremo di quella che è la vita universitaria, che è un bel momento della propria esistenza, uno la ricorda con nostalgia. Viverla a 40 anni probabilmente... Sì, siamo sempre all'università. Siamo sempre all'università. Sono Marta e vengo da Vicenza, ho 23 anni e studio filosofia. Sono venuta a Roma per fare la specialistica e per conoscere nuovi amici. Ho la passione del disegno e del cinema. Non cerco solamente una stanza, ma anche delle belle persone con le quali si possa vivere bene. Che pretese! Vuole anche mettere un'ipoteca sulla sua vita sociale e relazionale. Non le basta una bella casa, vuole anche delle persone che gli riempano tutti i vuoti esistenziali. Però ha messo questo annuncio su YouTube, e legge da lei chiederlo, ma noi ci accontenteremo di molto meno, una casa decente, che non occorra fare i propri bisogni nella tromba delle scale, come mi ha scritto qualche ascoltatore, perché il problema del bagno sembra veramente il punto di caduta estremo. Sembra assurdo che a decine e decine di anni dalla nostra uscita dal medioevo fantastico dei bagni di ringhiera ed epitali ancora ci siano persone che pensino che un essere umano può vivere in una casa senza un bagno completo di tutti gli accessori che fanno sì che noi almeno in questo abbiamo un'eccellenza nel mondo, e quando dobbiamo comunque non abbiamo più argomenti nei confronti di qualcuno che ci prende per la gola dici tu zitto che nei vostri bagni non avete nemmeno il bidet. Ricordo una fantastica trasmissione passata in cui una incantevole ascoltatrice con l'accento parigino difendeva il fatto che il suo bagno fosse senza bidet, e su questo potremmo aprire senz'altro un problema. Marcella, buongiorno. Buongiorno, io chiamo da Milano e qualche anno fa ho avuto la necessità di affittare un appartamento nel milanese, perché Milano città è molto caro, e quindi dopo ricerche in cui ho constatato che gli affitti in nero anche a Milano sono veramente molti. Ecco, ad onta di quello che dice l'agente immobiliare, si affitta ancora alla grande in nero in Italia. Questo moltissimo, lo stanno confermando tutti. Stanze, posti letto, posti minuscoli, ne ho visti veramente tanti tanti. E niente, io avendo poi escluso questa possibilità, perché avendo una discreta quantità di abiti, libri da trasferire, ho cercato fuori Milano e ho trovato un piccolo appartamento carino, molto carino, devo dire, un bilocale, affittato 250 euro. Effettivamente la cifra mi sembrava poco, ma effettivamente anche la zona era un po', non era molto comoda. E dov'era l'inganno, la fregatura dov'era? Dunque, la fregatura era che in questo appartamento io avrei dovuto ospitare anche il padrone di casa. Senza che mi sia stato detto, ci doveva abitare anche il padrone di casa. Cioè, una convivenza praticamente. Sì, lui aveva adibito una stanza con letto matrimoniale solo per me, ma nell'altra stanza dove c'era la cucina c'era il divano letto, dove i primi giorni ovviamente lui non ha dormito, dopo che io ho pagato l'affitto. Ma questo l'ha saputo dopo? Sì, ho notato che il terzo giorno lui ha dormito lì senza che io sapessi niente. Vabbè, ma scusi, è un po' ingenua. Com'è possibile che gli affitta una casa e poi con uso cucina come dormitorio da parte del padrone di casa? Ma lei stava bene questa situazione? Ma la situazione persona era, sì, stavo bene, era un po' distante dal lavoro, dove ho sempre... No, ma lei di averci però... questo signore in canottiera e in pigiama la mattina con le ciabatte? No, direi proprio di no, anche perché dopo ha cominciato a farmi domande del tipo, senti, ma la lavatrice come si usa? Ah, quindi lei doveva fare anche la colf del padrone di casa? Sì, no, poi mi ha chiesto se potevo stirargli un paio di pantaloni, sì. Visto che... Le è andata bene o male, non so, dal punto di vista che non le ha chiesto anche l'intima d'azione come ulteriore suggello. No, sono riuscita a trovare un'alternativa. È riuscita a trovare un'alternativa. Vabbè, questo mi fa molto piacere. Sandro, buongiorno. Buongiorno Nicoletti e ai suoi radioascoltatori. Io sono un ex agente immobiliare. E lavoravo a Udine città e quindi mi è capitato di dover affittare, perché c'era stato conferito un incarico da parte di un cliente, un appartamento con camera, bagno e un soggiorno con la cottura. Fin qua tutto bene, il problema era che la palazzina veniva spacciata come in una palazzina signorile in un luogo esclusivo. Ma erano gli inquilini che nel frattempo comunque continuavano ad abitare questo appartamento, che non erano propriamente né signorili né tantomeno... Ma se ne sarebbero andati una volta riaffittato? Sì, sì. Ah. Sì, se ne sarebbero andati. Quindi lei quando entrava con il nuovo cliente o con la persona cosa vedeva? Io dovevo innanzitutto, prima di programmare la visita con il cliente, anche programmare la visita con gli inquilini, perché lavoravano, erano tre ragazzi... tre trans, diciamo così, che lavoravano prevalentemente di notte, quindi io dovevo trovare con loro l'orario giusto per non disturbarli nelle ore di riposo. E poi entravo in questa casa che era completamente addobbata con teli che oscuravano le finestre, con attrezzature varie per il lavoro. Cioè, quindi avevano gli strumenti del lavoro in casa. Sì, sì. E questo le creava imbarazzo, naturalmente. Le dico, era un doppio lavoro. Vedere quelle rastrelliere di artiglieria, mi immagino che non invogliasse molto probabilmente l'inquilino. Proprio rastrelliere con artiglieria, no, però pellicce, equivoche, costumini, perizomi e cose di questo genere. Era un casino con la casa, con l'appartamento, diciamo la verità. Non lo facevano all'interno, però sì, era un casino nel cioè lì si attrezzavano e poi uscivano a lavorare fuori. Vabbè, sono sì, situazioni che capitano. Marina, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, sono in linea? Certo. Allora, è successa una cosa molto imbarazzante. Ho risposto a un annuncio e ho scoperto di essere io e un'altra ragazza selezionate per l'ultimo colloquio per verificare se eravamo all'altezza della situazione. Nel senso che erano dei coinquilini già in tre in una bellissima casa nel centro di Roma, tutti architetti, designer, eccetera. Mm-hmm. Quindi ci avevano selezionato anche in base alla nostra professione, che evidentemente era adeguata. Perché qual è la vostra professione? Io sono un art director e l'altra, non so, studiava arte. Avevamo una trentina d'anni. Quindi due artiste. Sì, e ci hanno dovuto proprio sottoporre a una serie di domande, se ci piaceva l'astrattismo russo, se preferivamo questo tipo di architettura o che quale firma avevamo visto. E superato questo test di qualificazione? Non solo, abbiamo dovuto portare tutte le cose da mangiare, compresi i vini indicati da loro, dolce, eccetera. Alla fine del pranzo ci siamo talmente sentite umiliate che siamo state noi due a dirgli che non li trovavamo adeguati alla nostra... Ma secondo me era un gioco di società che facevano per divertirsi. Vi hanno un po' preso per il culo, semplicemente. Ma hanno messo tanto di annunci e hanno... Beh, è un gioco di società. I giovani architetti, al diretto della Terrazza Romana, hanno detto, ma prendiamo in giro delle ragazze, vi hanno dato... È ridicola in sé, non so come avete fatto a boccarci voi a questa cosa. Può darsi. Sì, siete un po' ingenue, diciamo. Poteva essere una buona occasione, forse cercano semplicemente persone spiritose per allargare il loro studio, non lo so bene, perché fatto... No, posso assicurare che erano molto snob e antipatici. Quindi era un infame gioco di prendere in giro due povere ragazze bisognose di un appartamento. Esatto, e il secondo invece annuncio a cui ho risposto era un loculo al verano. Cioè, ma sta prendendomi in giro, non è così? Ho risposto a un annuncio a San Lorenzo, che è un bellissimo, un quartiere molto carino di Roma. Solo che l'appartamento non aveva finestre e si affacciava di fronte alle mura del cimitero. In vista cimitero, però tanta gente abita, il verano è bello grande. Infatti. anche il Monumentale a Milano ci sono appartamenti intorno, vista sull'oculo uno non può si abitua. Non c'era vista perché non aveva finestre. Niente, quindi state nell'oculo accanto. Vabbè, intanto vi abituavate, prima o poi il passaggio sarebbe stato come per tutti. Grazie infinite, ringraziamo gli autori del libro Cerco Casa Non Cesso, questa mattina abbiamo visto che è un libro profetico che immobilizza una realtà che stiamo vivendo comunque. Grazie Chiappini, grazie Intonti. A domani.